Riprendiamoci lo sport. La riscoperta dello sport popolare in Italia. Partite truccate, doping, cori razzisti, violenza. Negli ultimi 20 anni questi termini sono stati spesso associati allo sport. I numerosi scandali che hanno interessato il mondo sportivo agonistico hanno incrinato l'immagine di quello che è un modo per curare il proprio corpo e la propria salute e mettere alla prova se stessi insieme agli altri. Esiste però un'altra faccia di questa medaglia. Anche se fa molto meno clamore dei campioni del business sportivo, anche se appare raramente sui giornali o negli altri mezzi di comunicazione, negli ultimi anni in Italia e non solo, viene riscoperto un altro modo di intendere l'attività fisica, un modo pulito, che contribuisce anche ad uno sviluppo sociale armonioso e privo di discriminazioni. È lo sport popolare, a cui è dedicata questa inchiesta del sottoscritto Alessandro Canella con il contributo di Laura Zacchiroli. Mettetevi comodi, comincia la partita. Felicità, Gimpera, compra Gigi Now. In mais grande festa. Impringendo meio campo, Gijonal fez grande gol. Hoje Gijonal, se Deus quiser, o mais melhor. Gijonal pega a bola no meio do campo, passa na manga direita para o Filho, que amassa direito para que a sua desmarca para Marcos também. Que toca para Gijinho, toca para Gijonal na triangulação. Avança, avança outra vez pela banda direita. Filho, filho, outra vez para Gijonal, outra vez para Gijonal. Passa a bola para frente, descarga o goleiro. Gijonal, Gijonal, Gijonal. Felicidade, bela compra de Gijonal. Infringindo o meio campo, Gijonal fez grande gol. Hoje Gijonal, se Deus quiser, o mais melhor. Lo sport, oltre che una pratica, è una sorta di filosofia. Attorno ad essa, dalla sua nascita fino ai giorni nostri, si sono alternate e combattute diverse interpretazioni. La politica, quindi, si è interessata allo sport appena questo ha cominciato ad essere un fenomeno significativo, quasi di massa, facendone strumento al servizio della propria visione del mondo. Per capire meglio perché lo sport non è solo un gioco tra atleti più o meno bravi, ma è qualcosa di molto più serio, cominciamo con un po' di storia. A parlarci della nascita dello sport, per come lo conosciamo oggi, è Luca Alessandrini, direttore dell'Istituto Storico Ferruccio Parri. Lo sport modernamente inteso si sviluppa in particolare nei paesi anglosassoni, poi in Francia, in Italia buona ultima, nella seconda metà dell'Ottocento, come attività principalmente borghese. E tuttavia porta in sé qualcosa di nuovo. Da una parte l'idea illuministica di un uomo razionale che è fatto tanto di mente quanto di corpo. Dall'altra parte porta in sé gli effetti della rivoluzione industriale. All'improvviso produce una quantità di uomini e di donne, produce masse che vivono la medesima condizione, hanno la medesima organizzazione del tempo e quando le lotte sociali portano a una riduzione dell'orario di lavoro, queste grandi masse hanno contemporaneamente il tempo libero di cui fruire davanti a sé. La nuova cultura del rapporto col proprio corpo e la nuova cultura del tempo libero che va nascendo producono lo sport moderno e in quel momento è oggetto immediatamente di politica. Da una parte lo sport può essere letto come addestramento fisico alla guerra. Lo sport è guerriero in molti casi, è guerriero in molte teorie ottocentesche e sarà fortemente guerriero con i fascismi in Europa, perché lo sport addestra il fisico ad attività atletiche, ma che possono essere attività belliche. E d'altra parte di sport bellici ce ne sono tanti, innanzitutto il pugilato, la lotta e poi e le varie forme di tiro, una idea di competizione come di sopraffazione dell'altro. Naturalmente a fronte di questo ci sono tesi opposte, tesi che considerano invece lo sport come educazione fisica e come pienezza del proprio essere intellettuale e fisico. È questa l'anima anglosassone che tuttavia stenta ad affermarsi. Come abbiamo già intuito dalle parole di Alessandrini, il fascismo e il nazismo agli inizi del Novecento si impadronirono dello sport per farne uno strumento per i propri fini politici e contemporaneamente dando una pesante impronta al concetto stesso di sport. Il fascismo è un passaggio fondamentale. Il fascismo italiano, che è il primo fascismo in Europa, ad affermarsi in Europa, si trova di fronte un'Italia di corpi che si sono visti nella prima guerra mondiale, corpi che sono stati misurati alle visite di leva della prima guerra mondiale, corpi deboli, corpi macilenti, corpi malnutriti, corpi che hanno combattuto ma hanno combattuto a un livello molto basso delle potenzialità fisiche di un organismo. Il fascismo ritiene che, dovendo essere esso una nazione guerriera, una nazione protesa ad affermare la potenza della nazione attraverso innanzitutto lo strumento della guerra, non solo militarizza la nazione fin dall'infanzia, la società fascista è una società fortemente militarizzata, ma riprende le teorie dell'educazione fisica, dello sport, per trasformarle in un'attività obbligatoria che viene chiamata manifestamente come pre-militare. Le ore di ginnastica vengono aumentate a scuola, vengono svolte in uniforme militare e si riferiscono ad attività che rafforzano il corpo ai fini della guerra. Un'idea del genere non è nuova, il fascismo non scopre niente. Il fascismo riprende teorie della fine dell'Ottocento e le porta a sistema a livelli estremi. Addirittura in Italia si chiamava nella fine Ottocento ginnastica militare, l'attività di educazione fisica che viene resa obbligatoria negli istituti di istruzione secondaria. Ma è niente rispetto all'operazione complessiva che su questo costruisce il fascismo, che addirittura sottrae l'educazione fisica al Ministero della Pubblica Istruzione per affidarlo all'Opera Nazionale Balilla nel 1927 e nel 1937, quando l'Opera Nazionale Balilla si trasforma in Gioventù Italiana del Littorio, è la Gioventù Italiana del Littorio che si occupa di una ginnastica tutta volta, di un'attività fisica tutta volta alla guerra. Questo passaggio è fondamentale perché segna duramente tutta l'idea dello sport. Una politica fascista porta lo sport in una certa direzione e lo inquina in modo indelebile. Da due punti di vista. Uno, la concezione stessa dello sport. Il fascismo privilegia sport guerrieri, il pugilato, Primo Carnera che diventa campione mondiale dei pesi massimi di pugilato è celebrato come un eroe nazionale, privilegia gli sport individuali e quando si interessa agli sport di squadra lo fa soltanto per vedere la squadra come un esercito compatto dietro a un capitano, dietro all'idea di nazione. L'altro aspetto è quello del rapporto con le masse, non soltanto nella pratica dello sport, ma nello sport come spettacolo. È il fascismo italiano il primo regime a costruire i grandi stadi per il calcio. Il gioco del calcio si era sviluppato prima della prima guerra mondiale, era cresciuto molto durante la prima guerra mondiale quando per distrarre i soldati nelle retrovie del fronte gli inglesi fanno spedire al fronte migliaia di palloni da calcio, ma è il regime fascista italiano che decide di farlo diventare il grande sport di massa con stadi che possano contenere decine di migliaia di persone. Sono le opere pubbliche più imponenti, lo stadio di Bologna che viene costruito nel 1926, quello di Torino, quelli di Firenze, strutture gigantesche mai viste prima, immense, che trasformano il calcio in uno sport che rappresenta la potenza della nazione. La squadra di calcio è un piccolo esercito eroico che sfida le altre nazioni e le annienta. E così l'Italia vince 3 campionati del mondo di calcio uno dopo l'altro perché il regime investe tutto su questa immagine sportiva. Il Duce riceve i calciatori azzurri che hanno assicurato all'Italia la Coppa del Mondo, presentati dal ministro segretario del partito, presidente del CONI. La un'attenzione, come dire, del fascismo rivolta allo sport si ritrova anche in figure concrete. Se pensiamo a Bologna, il capo degli squadristi Arpinati, che poi è diventato presidente della FIGC, quindi c'era una contiguità, insomma, stretta. Beh, la contiguità è stretta da una parte. Ne abbiamo un esempio recente e tragico. Vi ricordate Arkan, capo delle squadre criminali filoserbe che hanno partecipato allo sterminio e al genocidio nella guerra dei Balcani soltanto 20 anni fa di fronte alle porte di casa nostra? E quel gruppo di criminali fanatici nazionalisti veniva dal tifo calcistico. Questo è un legame diretto e evidente sotto i nostri occhi. Dall'altra parte, il fascismo non solo ha molti propri esponenti che vengono dallo sport, ma investe sullo sport completamente, per cui a dirigere le società sportive vengono messi gerarchi del fascismo, dirigenti del fascismo, in tutti i campi, anche se sono completamente incompetenti, ma per dare un'impronta ideologica. Per esempio, la Lega Navale Italiana viene presieduta dal segretario del Partito Nazionale Fascista, totalmente incompetente in fatto di vela, navigazione, sport acquatici, ma rappresenta la forte presenza ideologica del regime sul campo. Nulari e basso di statura, nulari e al di sotto del normale. Nuvolari e a 50 kg d'ossa, nuvolari ha un corpo eccezionale. Nuvolari alle mani come artigli, nuvolari ha un talismano contro i mali. Il suo sguardo è di un falco per i figli, i suoi muscoli sono muscoli eccezionali. Quando corre Nuvolari, quando passa Nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati. Quando corre Nuvolari, quando passa Nuvolari, la gente aspetta il suo arrivo per ore e ore. E finalmente, quando sente il rumore, salta in piedi e lo saluta con la mano, gli grida parole d'amore e lo guarda scomparire come guarda un soldato a cavallo nel cielo di aprile. E l'immagine è importantissima. Hitler sale al potere nel 1933 e Berlino aveva avuto l'assegnazione dei giochi olimpici. Hitler decide di rifiutare questa cosa, era stata voluta dal regime democratico precedente, non vuole i giochi olimpici, ma Goebbels, il fine e diabolico ideologo del nazismo, suggerisce a Hitler che i giochi olimpici potrebbero essere un'occasione straordinaria di rappresentazione della potenza della Germania nazista. E così i giochi del 1936 vengono trasformati in una enorme kermesse, sono le prime Olimpiadi ad avere una risonanza mondiale, che da allora non cesserà, nelle quali fare emergere il valore delle potenze fasciste. Il Führer, dalla tribuna d'onore, avendo al suo fianco il principe ereditario d'Italia, dopo la sfilata degli atleti, dichiara aperta la 11ª Olimpiade. Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der ersten Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Naturalmente non va tutto bene, ma molto sì, non va tutto bene nel senso che nell'atletica leggera si affermano gli afroamericani con grande scandalo di Hitler, ma era supponibile che questo accadesse. Ma in tutti gli altri sport c'è una forte rappresentazione dei regimi fascisti, il medagliere è inequivocabile. Ora, questa idea dello sport come rappresentazione della potenza politica della nazione ci ricorda quello che accade nel secondo dopoguerra con i regimi del socialismo reale, dell'Europa dell'Est, che hanno investito moltissimo sullo sport perché diventasse la rappresentazione della forza di queste nazioni socialiste. Un impegno dal basso, un impegno collettivo, ma che portava la propria nazione attraverso i propri rappresentanti sportivi ad imporsi tra le altre nazioni. E qui c'è un altro aspetto politico dello sport, che quando una nazione vuole affermarsi attraverso lo sport, incredibilmente ci riesce. L'Italia povera riesce a vincere 3 campionati del mondo di calcio e una quantità di medaglie alle Olimpiadi del 36, perché il fascismo investe tanto su questo. I paesi dell'Est Europa poveri negli anni 50 e 60 del Novecento riescono a ottenere risultati straordinari alle Olimpiadi. Con la sconfitta del fascismo e del nazismo e la fine della Seconda Guerra Mondiale cambia qualcosa anche per lo sport. Nel 1943 nasce il Fronte della Gioventù, che in seguito darà vita anche a comitati di sport popolare. Si trattava di un tentativo di riappropriarsi dello sport e di un'idea diversa di sport. Sì, da quello sforzo, frutto delle forze che partecipano al Comitato di Liberazione Nazionale, del quale il Fronte della Gioventù era l'emanazione giovanile, nasce la UISP, la Unione Italiana Sport Popolare, che nell'immediato dopoguerra costruirà un'attività sportiva diversa. È un'attività sportiva che tecnicamente viene definita come promozione sportiva, che dovrebbe diffondere un'idea dello sport non agonistica, non competitiva, ma per la crescita personale e per la crescita di gruppo. Dunque, la squadra non è più vista come un nucleo d'acciaio che risponde al proprio capitano e conquista medaglie per la nazione, ma come collettivo, come luogo nel quale tutti sono ugualmente importanti e tutti partecipano collettivamente alla riuscita dell'intrapresa sportiva. È l'esatto ribaltamento dell'idea fascista dello sport. È lo sport come costruzione dell'io privato e come costruzione dell'io sociale, come costruzione della capacità di relazione e come costruzione della propria capacità quindi di cittadinanza, perché consente di avere un individuo consapevole di sé e capace nelle relazioni con gli altri. Questa è l'idea della promozione sportiva che discende dal Comitato di Liberazione Nazionale, che però in Italia ha avuto un precedente importante. Non tutto lo sport si piega al fascismo. Prima della Prima Guerra Mondiale nascono fin da allora delle associazioni di sport popolare che non sono borghesi, che non vogliono essere borghesi e che ritengono che il mondo del socialismo debba appropriarsi della cultura fisica e non lasciarla appannaggio soltanto delle classi borghesi. Sono associazioni diffuse, società sportive diffuse per il territorio. Mi piace qui ricordarne una notissima prima della Prima Guerra Mondiale, i ciclisti rossi, società sportive di ciclisti che erano collegate tra loro, fortemente ideologizzate in senso politico-socialista. E i ciclisti rossi durante lo squadrismo fascista saranno tra i pochi gruppi a contrastare anche in modo armato le squadre fasciste e saranno poi naturalmente sciolti dal fascismo quando il fascismo va al potere. Dunque esisteva un filo di sport popolare che aveva combattuto non soltanto contro la destra ma anche a sinistra, perché nel mondo socialista esisteva anche una corrente di pensiero contraria allo sport in quanto ritenuta una decadente occupazione borghese. Esisteva l'antisportismo socialista a fine 800 inizio 900 e questo antisportismo socialista lo ritroviamo dopo il fascismo. Il fascismo aveva connotato talmente fortemente lo sport che ci sono molte persone democratiche e di sinistra che dopo la Seconda Guerra Mondiale rifiutano lo sport, hanno una sensazione di rigetto perché lo associano automaticamente al fascismo. Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Mino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni e il cuore pieno di paura. Ma Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore o non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai di giocatori tristi che non hanno vinto mai ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro e adesso ridono dentro al bar. E sono innamorati da 10 anni con una donna che non hanno amato mai. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. Nel 1948 dunque nasce la WISP con lo scopo di ribaltare la concezione data allo sport dal fascismo. Le parole di Vincenzo Manco, presidente nazionale della WISP. La WISP nasce nel 48 a braccetto con la Costituzione italiana ed ha una funzione completamente diversa da quel riferimento storico e tanti versi tragico. E quindi con l'idea di rendere la pratica sportiva in quella fase storica, particolarmente soprattutto nella diffusione delle discipline, anche a quegli strati popolari che non avevano, soprattutto dal punto di vista economico, la possibilità di accedervi. Quindi un allargamento della partecipazione alla pratica sportiva e alla diffusione della stessa pratica sportiva, che fino a quegli anni era ancora elitaria o appunto frutto di propaganda del regime fascista. E invece la WISP contribuisce fortemente a rendere appunto popolare la pratica e a permettere agli stati della popolazione meno abbienti, che non avevano la possibilità di accedervi, invece di avere i propri figli a praticare lo sport. Passano pochi anni e con un vizio purtroppo noto alla sinistra arrivano le prime divisioni. Le parole di Luca Alessandrini. Nel secondo dopoguerra se da una parte è cresciuto enormemente lo sport popolare, dall'altra parte è stato afflitto da divisioni politico-ideologiche. Così come con l'affermarsi della guerra fredda il sindacato si spacca. La CGIL, che era un sindacato unitario, vede uscire la propria costola cattolica, la CISL, e poi la propria costola socialista, laica, la UIL. Succede la stessa cosa nello sport popolare. La WISP vede staccarsi progressivamente la corrente cattolica di fronte ai grandi conflitti sociali del dopoguerra. Il CSI, per la verità il CSI era già nato nel 1944, ma diventa il punto di riferimento di tutti i cattolici che non stanno più nello sport popolare della WISP. E poi l'AICS, l'AICS di anima socialista. Quindi anche lo sport popolare sente la stessa divisione tra i partiti democratici di fronte all'assalto perturbatore della guerra fredda. State con l'Unione Sovietica o state con gli Stati Uniti? E naturalmente esiste una grande parte di popolo democratico e di sinistra che non è stalinista e che però non accetta naturalmente i governi moderati, democristiani, e non accetta l'imperialismo statunitense. Per questi sono anni durissimi. Alcuni staranno obtorto collo con l'Unione Sovietica, altri staranno obtorto collo con gli Stati Uniti. La WISP è un luogo nel quale lo schieramento con la sinistra filosovietica non sarà un ostacolo a una grande partecipazione. Continuerà a crescere e con la fine della guerra fredda cambierà nome. La WISP non si chiamerà più Unione Sport Popolare, ma Unione Sport per Tutti. Rimane l'acronimo WISP, ma il significato cambia. Popolare era una parola che aveva un significato, una carica di contrapposizione sociale molto forte negli anni più duri dello scontro di classe in Italia. Dopo si vuole dare l'idea di un'apertura a nuove idee di cittadinanza più inclusive, e quindi quando si parla di sport per tutti si intende innanzitutto l'apertura a coloro che venivano considerati disabili e a coloro che venivano considerati estranei, perché al di fuori della comunità nazionale, gli immigrati, eccetera. La WISP, come la CGIL, come il Partito Socialista e Comunista, dunque, si frammentano e negli anni 60 nasce l'AICS, come ci racconta il presidente bolognese dell'associazione, Serafino D'Onofrio. L'AICS è un ente di promozione sportiva, è nato nel 62, fondato dal mitico ministro del lavoro socialista Giacomo Brodolini, uno dei padri dello statuto e delle lotte dei lavoratori in Italia. Negli anni si è caratterizzato, oltre al discorso percorso sportivo per l'attività culturale, l'attività di intervento sociale, la promozione di progetti di interesse civile, l'ambiente, eccetera. Quindi diciamo che adesso lo spettro delle nostre attività è molto molto più ampio di quello della fondazione, e lo sport è una componente essenziale perché siamo un ente di promozione sportiva inerente al CONI, però adesso è diventata solo una metà della nostra attività. Tutto il resto è sociale, cultura, è musica, è ambiente, è protezione civile, eccetera. Per quanto nobile, il lavoro sportivo del secondo dopoguerra sconta un errore di fondo che ci portiamo dietro ancora oggi. Luca Alessandrini. Ma il punto debole qual è? Non soltanto le divisioni del mondo della promozione sportiva, ma anche il fatto che in Italia la promozione sportiva è considerata in un qualche modo come la sorella minore dello sport agonistico competitivo. Noi sappiamo che lo sport agonistico, lo sport competitivo, lo sport cosiddetto olimpico dipende dal CONI, un organo nazionale riccamente dotato di fondi che attraverso le federazioni olimpiche promuove e coordina tutti gli sport, ma gli sport in termini agonistici. Recentemente alcune federazioni sportive del CONI hanno raccontato che vogliono fare anche promozione sportiva, ma in realtà la loro natura è quella, nascono per quello. Ora, se noi andiamo in Francia o in altri paesi europei, dallo Stato dipendono ugualmente importanti gli enti di promozione sportiva e gli enti olimpici. In Italia invece gli enti di promozione sportiva dipendono dal CONI, e cioè lo Stato finanzia il CONI e il CONI finanzia, bontà sua, gli enti di promozione sportiva, con una disparità enorme non soltanto in termini di finanziamento ma anche in termini evidentemente di peso, di significato simbolico, di significato politico. Gli enti di promozione sportiva dunque non hanno lo stesso riconoscimento del CONI. Vincenzo Manco, presidente nazionale WISP. Diciamo che la classica anomalia italiana come tante, il sistema sportivo italiano è di fatto il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, è il CONI, perché a differenza di altri paesi, veniva citato il modello francese, il CONI italiano è di fatto un ente pubblico di secondo livello, e tra l'altro condividiamo il modello di sistema sportivo nel mondo con l'Azerbaigian. Quindi sono questi due modelli di anomalia rispetto a quello che è il rapporto dello stesso protocollo di Monaco, che per esempio impone al CIO, al Comitato Olimpico Internazionale, l'autonomia dalla politica, e quindi tutti i comitati olimpici nazionali sono dei comitati autonomi. Sta in questa anomalia, diciamo, tutta italiana, io non la chiamerei una vera e propria dipendenza, ma comunque la necessità di intercettare risorse, quindi di vedersi riconosciuto il valore della propria pratica sportiva nel Comitato Olimpico Nazionale Italiano, che per certi versi ha le sue caratteristiche, i propri obiettivi, che sono quelli del medagliere olimpico, che spesso e volentieri magari non riconoscono, come già oggi accade, una pratica sportiva di enti di promozione sportiva come il nostro, e su questo, nonostante contribuiamo al benessere dei cittadini, non abbiamo comunque in alcune attività specifiche nostre un riconoscimento e quindi di conseguenza anche risorse, ecco, pubbliche, che potremmo ulteriormente intercettare per quello che facciamo. Si chiamava Spartaco e nella quinta B giocava a centrattacco tutti i giovedì, coi capelli a spazzola, la maglia verde e blu e i calzettoni arrotolati giù. Correva come un matto e saltellava come un gatto e tutti gli gridavano così: oh, oh, oh, oh, che centrattacco! Oh, oh, oh, oh, oh, tu sei un cerbiatto, sei meglio di Verratto, ogni tiro va nel sacco, oh, oh, oh, che c'entra attacco. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, molti gli passarono e grande diventò, finché come riserva in Serie B giocò. Ma non contentandosi con zelo e serietà, si preparava per giocare in A. Correva come un matto e saltellava come un gatto e tutti gli gridavano così: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, che centrattacco, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, tu sei un cerbiatto, sei meglio di Verratto, ogni tiro va nel sacco, oh, oh, oh, oh, che centrattacco. L'inchiesta torna domani alla stessa ora. Per riascoltare questa puntata andate su www.radiocittafugico.it, dove è disponibile il podcast. Nella serie A, ma il suo sogno splendido ancor più in alto andò, la maglia azzurra in cuore sospirò. Correva come un matto e saltellava come un gatto, e tutti gli gridavano così: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Che c'entra attacco? Oh, oh, oh, oh, tu sei un cerbiatto, sei meglio di Lebratto, ogni tiro va nel sacco, oh, oh, oh, che c'entra attacco. Quando lo passarono al fine nazionale, giocò contro il Brasile e contro il Portogallo. Era lanciatissimo, 18 gol segnò, ma giunto al 19 si svegliò. Cadendo giù dal letto, proprio sullo scendiletto, guardandosi allo specchio si gridò: oh, oh, oh, oh, che c'entra attacco? Oh, oh, oh, oh, che sogno matto! Son peggio di Ercolino, quante pive c'ho nel sacco? Oh, oh, oh, che c'entra attacco? Per riparare lo smacco, quanto prima al muro attacco, le foto di Lebratto e Nicolè. Che c'entra attacco?